2024 di Enrico Pagliarini. Le 15:31 minuti, benvenuti o bentornati a 2024. Questo è il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Ci trovate anche attraverso il servizio podcast di Radio 24 che vi consiglio di utilizzare. È un servizio molto utile per riascoltare i nostri programmi e sicuramente 2024 è uno dei programmi più scaricati dai nostri ascoltatori. Questa è la puntata del 18 maggio 2013. Io sono Enrico Pagliarini, con me c'è Valeria Bernardi che si occupa della parte tecnica e anche Giorgio De Luca che ci aiuta. In postazione al nostro centralino c'è Micol, benissimo, quindi vi ricordo anche il nostro numero di telefono che è un numero gratuito, numero verde 800240024, chiamatelo in modo particolare, beh, per tutte le vostre considerazioni o domande, ma in modo particolare per parlare di mappe, perché a questo dedicheremo un approfondimento nella seconda parte. Le mappe diventano sempre più importanti, ci possono fare tantissime cose, ci sono alcune novità che sono state presentate, ma faremo anche un po' il punto della situazione. Allora, purtroppo non c'è nulla di nuovo per l'agenda digitale italiana, se ne parla da tempo, ci vorrebbe un coordinamento, ma soprattutto una serie di azioni. Ricordiamo che l'agenda digitale è partita tanti anni fa a livello europeo, ci sono 101 azioni da fare, quindi è una cosa piuttosto complessa che arriva e tocca tantissimi aspetti della vita di tutti i giorni, ma soprattutto dell'economia di tutti i giorni. Questa settimana il ministro Zanonato, il ministro dello sviluppo economico, ha semplicemente detto, rispondendo ad una domanda di Antonio Palmieri, Zanonato ha detto che è necessaria una guida unica. Vabbè, insomma, ci aspettavamo anche qualche cosa di più, e naturalmente Zanonato dice che la guida unica deve essere quella del Ministero dello Sviluppo. Non lo dice lui, ma è una traduzione che noi facciamo. Ricordo che Antonio Palmieri è un membro del Parlamento del PDL ed è uno dei pochi che si occupa di agenda digitale, uno di quelli che ogni tanto ricorda anche al governo che sarebbe importante occuparsi di questi temi piuttosto che di mille altre cose molto meno importanti, perché lo diciamo sempre, ma lo dicono fortunatamente gli esperti, lo dice anche l'Unione Europea, tutte queste azioni, se ben combinate e messe in atto, potrebbero favorire lo sviluppo economico sia delle nuove aziende, ma anche delle aziende più tradizionali, perché ormai tutto quello che riguarda la tecnologia, la diffusione della banda larga, l'utilizzo della tecnologia all'interno delle aziende e delle organizzazioni riguarda anche chi fa tondini di ferro, e quindi bisognerebbe occuparsene. L'Unione Europea dice che dal 2012 al 2020, se tutte queste 101 azioni venissero messe in pratica, beh, si creerebbero quasi 5 milioni di posti di lavoro e il prodotto interno lordo di tutta l'Unione Europea crescerebbe del 5%, che vuol dire 0,6-0,7% ogni anno. Importantissimo. E invece ci occupiamo e sprechiamo tempo in molte altre cose. Allora, ci sono invece notizie interessanti che arrivano da Bruxelles. Si apre formalmente un nuovo capitolo nelle dispute commerciali tra l'Unione Europea e la Cina. La Commissione Europea ha annunciato di avere deciso di avviare una procedura anti-dumping sui prodotti cinesi di telecomunicazioni. Allora, Bruxelles ha detto che per ora l'avvio operativo di questa procedura resta congelato per consentire un'eventuale soluzione bonaria su base negoziale con Pechino, una sorta di avviso. Avvisiamo Pechino di avere lanciato questa procedura anti-dumping, però cerchiamo insomma un accordo. Allora, per il momento questo mercato, che è un mercato molto importante, vale 1 miliardo di euro, cioè quello che viene esportato, visto da noi, importato dalla Cina, vale 1 miliardo di euro. Ricordiamo che esiste dumping quando uno Stato sovvenziona un'azienda per operare su un mercato straniero a prezzi più bassi rispetto al mercato interno, a volte anche addirittura rispetto alla produzione. Naturalmente questa è concorrenza sleale, soprattutto se ci sono accordi e se gli Stati fanno parte del WTO. Allora, se parlate con molti operatori di telecomunicazioni un po' in tutta Europa, non è un segreto che i cinesi arrivino in Europa con offerte a prezzi fuori mercato, troppo bassi, e quindi si aggiudichino molte commesse milionarie. Il commissario europeo al commercio questa settimana, che è Karel de Gucht, ha citato in una intervista esplicitamente due aziende di cui si parla spesso quando si discute di telecomunicazioni e di Cina, cioè Huawei e ZTE, che sono attualmente il numero 2 e il numero 5 per gli apparati di telecomunicazioni. Naturalmente il fatto è ancora più grave se poi si considera quanto strategico è il settore delle telecomunicazioni. Gli Stati Uniti da tempo tengono fuori dal mercato le aziende cinesi di telecomunicazioni e ne hanno, o comunque ne hanno limitato la fetta di mercato, anche spingendo, e sicuramente c'è molto interesse nazionale da parte degli Stati Uniti, anche spingendo molto i timori di spionaggio. Si discute molto se questo sia vero o no. Tuttavia, gli Stati Uniti e in maniera più o meno esplicita anche alcuni paesi europei, di sicuro non l'Italia, accusano alcune aziende cinesi di avere connessioni troppo strette con il governo cinese. E quando tu hai delle macchine che tu stesso hai costruito, quindi le conosci e sono installate nei nodi della rete internet, puntini, puntini, puntini. Decidete voi cosa potrebbe succedere. Allora, tutte le settimane riceviamo o leggiamo su internet una lunga lista di notizie relative ad attacchi informatici, spionaggio, sabotaggio. Ne parliamo spesso 2024 perché penso che questo sia un aspetto molto importante e sensibile della nostra economia. Allora, l'ultima notizia riguarda il Financial Times, che è stato colpito da hacker che supportano il governo siriano. Non è successo nulla di grave, comunque c'è stato questo attacco. Nel frattempo membri del gruppo Lulzsec sono stati condannati a Londra per attacchi informatici. La pena più severa è stata di 2 anni di carcere. Anche in Italia però abbiamo notizie da questo punto di vista, perché è stata messa a segno un'operazione che ha portato agli arresti domiciliari 4 persone di età che vanno dai 20 ai 34 anni. Hanno attaccato siti web di istituzioni come la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Difesa, la Polizia, i Carabinieri, sito del Corpo delle Capitanerie di Porto, poi del Comune di Torino, del Sindacato Autonomo della Polizia Penitenziaria e anche la Banca d'Italia. Poi sono state attaccate anche alcune aziende tipo la Vitrociset, l'ENAV, il Banco di Lucca, l'Università LUIS, Trenitalia, Equitalia e l'Enel. Le indagini sono state condotte, sono partite dal Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche, che è una struttura, un team di esperti informatici che è stato creato circa 5 anni fa, fa parte della Polizia Postale delle Comunicazioni. Ne abbiamo parlato con il direttore di questa divisione della Polizia, che è Antonio Apruzzese. Ma guardi, il gruppo degli indagati è composto da circa 10 di persone, insomma. E alcuni sono stati sottoposti a provvedimento cautelare, altri, nei confronti di altri sono state eseguite delle perquisizioni. Ecco, questo gruppo, celandosi dietro la sigla di Anonymous, utilizzando la sigla di Anonymous, è risultato responsabile a tutta una serie di incontrovertibili elementi, diciamo, investigativi e probatori, una serie di gravi attacchi a numerosi siti e portali istituzionali di grande importanza. Questi attacchi, diciamo, il risultato di questi attacchi è stato un furto di informazioni o semplicemente il sito veniva messo KO? Allora, domanda tecnica molto interessante. Diciamo che più o meno erano di 3 tipi le tipologie di attacchi portati a termine. Quelli assolutamente più gravi erano quelli che hanno portato poi alla captazione di dati presi nei vari siti e nei vari portali, quindi un'azione di intrusione vera e propria all'interno del sito e del portale. Poi c'era un'attività che noi così in gergo chiamiamo di defacement del sito, vale a dire di sfigurazione dell'immagine, della home page, e questo ha un carattere, diciamo così, simbolico, oltraggioso, se così vogliamo dire. E poi c'è un terzo elemento, un terzo tipo d'attacco, che è quello che tecnicamente chiamiamo di DOS, quindi di denial of service, quindi di negazione di servizio, nel senso che il sito non risponde più alle connessioni che vengono fatte e quindi è non funzionante. Lo scopo finale di questo gruppo qual era? Rubare solo informazioni, ottenere soldi o altro? Guardi, quello che ha caratterizzato questo gruppo, che poi, per il quale per la prima volta in Italia la magistratura di Roma ha riscontrato gli elementi dell'associazione per delinquere, quindi per commettere questi reati informatici, questo gruppo appare decisamente non in linea con quelle che sono le linee base del noto gruppo Anonymous internazionale, sta nel fatto che veramente puntavano e tendevano anche a azioni con scopi di interesse personale, perché i dati si rubano quasi sempre anche per farne vendita, e se poi rilevi che dopo un attacco magari prendi contatto con una vittima per proporti o proporre un tuo amico come esperto di sicurezza, capisci che insomma ci sono fini che assai si pongono in linea con quelle che sono le direttive principali del gruppo Anonymous, che è un gruppo libertario, un gruppo che porta avanti delle ideologie, insomma. Sì, diciamo un gruppo di attivisti che ogni tanto fa sfociare questa attività in azioni discutibili e forse in alcuni casi anche al limite della legalità, però in questo caso stiamo parlando di tornaconto personale. Esatto, quindi in quindi, termini volgarissimi. Senta, per quale motivo poi si celavano dietro al nome Anonymous? Cioè in rete uno potrebbe trovare, diciamo, altre modalità per essere anonimo. Beh, voglio dire, dava una cassa di risonanza enorme, per questo abbiamo parlato di utilizzo e di sfruttamento della sigla di Anonymous, perché Anonymous è un movimento noto un po' in tutto il mondo, è una sigla conosciuta da tutte le parti, quindi presentarsi sotto questo ombrello, sotto questo cappello, attribuisce enorme visibilità. Quindi in questo caso, ecco, ci faccia capire però perché era necessaria questa visibilità. Uno potrebbe pensare che uno che compie azioni illecite tutto voglia fuorché la visibilità. Ma guardi, siccome qui il meccanismo perverso era quello di fare gli attacchi e quasi sempre rivendicarli, e aveva molto più risonanza, sì, la rivendicazione fatta a nome di Anonymous. Chiaro. Ecco. Queste persone erano, cioè sono, diciamo, esperti di informatica o in qualche modo anche professionisti del settore oppure no? Sì, sì, sono tutte persone con elevate capacità e competenze informatiche, sia perché alcuni operano nel settore dell'informatica, sia perché quindi hanno un background abbastanza notevole, sia perché se lo sono fatto. Voi quanto tempo avete impiegato per intercettare questo gruppo e soprattutto sono arrivate delle segnalazioni precise, particolari o no? Guardi, l'indagine è stata molto lunga e complessa perché i fatti di cui parliamo cominciano a datare dal 2011 ed è stata proprio questa progressione dei fatti nel tempo che poi ha determinato alla fine i provvedimenti cautelari, perché bisognava comunque interrompere una reiterazione continua del fatto criminoso. Senta, le faccio una domanda più di carattere generale, al di là di questo caso. Lei ci ha detto che questi erano professionisti, quindi a maggior ragione possiamo dire che se uno non è tanto bravo è facilmente individuabile e molto spesso, come conferma appunto questa azione, anche se uno è bravo, alla fine poi lo si riesce ad intercettare anche su internet, visto che a volte c'è chi dice che su internet si riesce ad essere facilmente anonimi o a nascondersi facilmente. Ci sono delle tecniche raffinatissime di anonimizzazione, ci sono delle procedure estremamente complesse che tendono veramente a nascondere la mano di chi opera, però è il gioco di sempre, se me lo consente, quello che degli errori si commettono sempre e quando si commettono è su quello che si interviene. Sì. In questo caso è stato rubato del denaro o non si è ancora arrivato, cioè non si è arrivati a questo punto? No, al momento non abbiamo diretta cognizione di apprensioni di denaro né in forma diretta né attraverso, diciamo, moneta elettronica o storie di questo genere. Il interesse economico è indiretto, trasversale ed è connesso all'utilizzazione delle attività fatte. Questa era la voce del capo della polizia postale delle comunicazioni, Antonio Abruzzese. Quindi avete capito, insomma, questi creavano il problema, poi si offrivano come consulenti informatici per risolverlo. Naturalmente noi abbiamo dato spazio a questa notizia sperando che diventi routine, non esageriamo, però diciamo che speriamo che aumentino questi arresti, perché è giusto anche su internet che la polizia abbia i mezzi e le competenze, ma le competenze ci sono, a volte magari sono i mezzi che mancano, e quindi consigliamo ad esempio alla politica, invece di discutere di cose inutili, di osservare quello che stanno facendo le forze dell'ordine e dare maggior materiale a disposizione, sia umano che finanziario, per eseguire queste operazioni. Naturalmente, se guardiamo al contesto generale, sono ancora una minoranza i criminali informatici rispetto ai criminali normali, ma mano a mano che cresce l'economia digitale le cose cambieranno, quindi diventerà una notizia magari in breve quella di un arresto di questo genere. Comunque sicuramente sono informazioni e anche notizie interessanti. Sarebbe bello avere le competenze un po' generali per capire come si fanno ad intercettare, ma qui andremo un po' troppo sul difficile. Sono le 15:47 minuti, ci risentiamo tra poco. 2024. Più tardi parleremo delle novità che sono state presentate in settimana da Google alla conferenza che ogni anno si tiene in California, dedicata agli sviluppatori. Quest'anno non è stato presentato alcun prodotto fisico, ma alcune novità che riguardano i servizi. La conferenza si chiama Google I/O, sarà con noi tra poco Luca Salvioli del Sole 24 Ore per parlarne. Poi parleremo anche di mappe, visto che alcune delle novità riguardano anche il mondo delle mappe che si evolvono. Allora, proprio su questo sentiremo anche la voce dei nostri ascoltatori. Vi ricordo il nostro numero verde per parlare con noi di mappe digitali su internet e su smartphone: 800 24 0024. Adesso abbiamo alcune notizie della settimana. Digital News. Notizie in breve che abbiamo riassunto in questo modo, che adesso vi facciamo ascoltare, partendo da Yahoo. I vertici dell'azienda si riuniranno domani per decidere se spendere 1,1 miliardi di dollari per acquistare il sito di blog Tumblr. L'azienda ha convocato la stampa per lunedì a New York, dove ha sede Tumblr, dicendo che verrà annunciato qualcosa di speciale. Digital News. Vedremo se sarà speciale, comunque insomma questa dovrebbe essere la notizia. Allora, notizia che arriva dalla Apple, perché l'App Store, quello delle applicazioni, ha raggiunto questa settimana il traguardo di 50 miliardi di applicazioni scaricate. L'utente che ha downloadato la 50 miliardesima app ha vinto un bonus da $10,000, una bazzecola rispetto a tutti i soldi che la Apple fa con l'App Store, e devo dire anche molti sviluppatori in giro per il mondo che, grazie a questo negozio, a tutti gli altri che vendono applicazioni, hanno magari si sono inventati un nuovo mestiere. L'App Store dell'Apple è stata aperta a luglio 2008 e oggi ha 850.000 app. Dallo store di Google, da Google Play, sono state scaricate quasi 50 miliardi, perché siamo arrivati a 48 miliardi di applicazioni per Android. Digital News. La funzione di Google che suggerisce accostamenti di parole durante la ricerca, che molti di voi conosceranno, può essere lesiva dei diritti della persona e per questo va modificata. Lo ha stabilito in Germania una corte federale, che ha dato così ragione a una ditta di cosmetici il cui nome veniva automaticamente affiancato a parole come truffa, Scientology. La sentenza impone a Google di cancellare le associazioni infondate ogni volta che l'interessato ne faccia richiesta. Ma Google dice che, oltre ad essere già possibile richiedere la cancellazione di determinate associazioni attraverso un modulo online, è anche ingiusto che sia la società a pagare, perché quelle associazioni sono il risultato di precedenti ricerche fatte da altri utenti. Digital News. Cioè, come a dire, se uno cerca Pagliarini e cerca una parola negativa, non è colpa di Google, ma è colpa degli utenti. Ma questa è la sentenza. Comunque, sicuramente una evoluzione interessante. Allora, parliamo di Samsung, che ha detto che la prossima settimana, dato un'anticipazione, ha detto il Galaxy S4 raggiungerà il traguardo di 10 milioni di unità vendute in meno di un mese. Finora il record di vendite dell'azienda coreana era quello dell'S3, che ha raggiunto i 10 milioni ma in 50 giorni. Ultima notizia riguarda BlackBerry, che ha annunciato che il servizio di messaggistica BlackBerry Messenger, il BBM, molto famoso soprattutto tra i giovani, verrà messo a disposizione anche per iOS e Android. Finisce un'era, le app saranno gratuite e dovrebbero essere disponibili questa estate. Ebbene, noi adesso non abbiamo il tempo per farvi ascoltare un'intervista che vi faremo ascoltare tra poco. Tra poco parleremo del mercato dei terminali mobili. Una volta dicevamo della telefonia mobile, beh, un po' riduttivo. Stiamo parlando di nuovi dati che sono stati pubblicati da Gartner questa settimana. Il mercato nel primo trimestre dell'anno, quindi nei primi tre mesi, è stato un mercato in sostanziale stabilità, perché è cresciuto appena dello 0,7%. Sono stati venduti tra smartphone e telefonini classici 426 milioni di unità, quindi comunque un mercato molto interessante. Se guardiamo ai soli smartphone, stiamo parlando grosso modo della metà, quindi 210 milioni di terminali smartphone venduti nei primi tre mesi in tutto il mondo, con un aumento del 42% rispetto al 2012. Comunque un mercato, quello degli smartphone in modo particolare, in forte crescita e sempre in fermento. Al primo posto tra i produttori di telefoni in generale c'è Samsung con una quota del 23%, Nokia che ha il 14,8%, Apple il 9%, ma Apple vende un solo tipo di telefono. Poi c'è LG al 3,7%, ZTE cinese 3,4%, Huawei Technology cinesi al 2,6%, poi TCL, altri cinesi, Sony Mobile 1,9%, Lenovo e altri nomi incomprensibili perché sono tutti cinesi. Ne parleremo tra poco con Carolina Milanesi, collegata con noi dalla Silicon Valley via Skype. Ci risentiamo tra poco. Vi ricordo che parleremo di mappe e vi ricordo anche il nostro numero verde 800 24 00 24. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Riprende 2024, questa è la seconda parte. Io sono Enrico Pagliarini, con me c'è Valeria Bernardi che si occupa della parte tecnica, con me, diciamo che è dall'altra parte del vetro, a dovuta distanza perché poi litighiamo. Allora, per fortuna che c'è Valeria oggi con noi. Il nostro numero verde 800 24 00 24 per parlare con noi di mappe, perché di mappe parleremo partendo da un annuncio che è stato fatto da Google all'interno della settimana dedicata agli sviluppatori Google I.O., dove la I e la O la O stanno per Input and Output, ma anche per Innovation in Openness. Questo l'ho letto su Wikipedia, quindi la fonte è quella. Luca Salvioli, benvenuto, bentornato a 2024, ciao. Ciao Enrico, grazie, ciao a tutti. Luca Salvioli lavora alla redazione del Sole 24 Ore online e naturalmente si occupa, non solo perché la redazione è online, ma anche perché storicamente tu ti sei sempre occupato anche di tecnologia, e questa settimana da Milano. A volte è più comodo seguire le cose a distanza su internet piuttosto che dal vivo. Sì, sicuramente si torna un po' più freschi, diciamo, no? Certo. Allora, mi hanno raccontato che, vabbè, siamo in California, quindi un pochettino li giustifichiamo, comunque dà un po' il senso anche di questo mondo che fa un sacco di soldi, non parla di stupidaggini come facciamo noi in Italia, non a 2024, e pensa come andare avanti. Dicevo, in California mi hanno raccontato che alla conferenza io c'era un sacco di persone addirittura in ciabatte. Pensa a te. Pensa un po', eh. come va il mondo. Allora, noi parleremo di mappe e parleremo degli annunci. Prima però, come ho annunciato poco fa, vorremmo raccontarvi come sta andando il mercato della telefonia mobile, che poi è fortemente collegato con quello che diremo tra poco, partendo dagli annunci fatti da Google. Allora, vi dicevo poco fa che è un mercato sostanzialmente stabile, ma le cose vanno particolarmente bene in Asia. Di questo abbiamo parlato con Carolina Milanesi, Vice President di Gartner, collegata con noi via Skype dalla Silicon Valley. Il primo trimestre è sempre un trimestre un pochino difficile, no? Per riuscire a giudicare un po' a livello mondiale, perché hai delle regioni come l'Europa e il Nord America dove tutto rallenta, perché abbiamo appena avuto le vendite di Natale e quindi i nuovi prodotti sono usciti l'anno prima e quindi c'è un pochino di calo. Però quello che abbiamo visto quest'anno è che il primo trimestre è sempre importante per l'Asia, per la Cina, perché c'è la festività del nuovo anno cinese che porta sempre delle vendite molto forti, ma quello che abbiamo visto è che non solo la Cina ma anche altri mercati in Asia hanno fatto crescere l'importanza dell'Asia come mercato a livello mondiale, che adesso rappresenta più della metà del volume totale dei telefoni venduti nel mondo. L'Asia dunque cresce anche per i motivi che tu ci hai illustrato, ma a parte il Natale, come vanno le cose in Europa, in un mercato che mi pare di capire comunque voi state registrando in continuo calo? Esatto, le cose in Europa stanno rallentando perché comunque la maggior parte dei consumatori ha gli smartphone e quindi non c'è incentivo a spostarsi da un feature phone, da un telefonino più normale, diciamo, allo smartphone, e chi ha il feature phone non è interessato allo smartphone, o perché il costo del telefono è troppo alto o perché il costo della gestione del telefono è troppo alto, quindi non è soltanto c'è il sussidio dell'operatore, quindi non pago i $600, i €600 che costa il telefono, ma c'è il discorso che poi ogni mese ho dei costi fissi che vengono dall'utilizzo della parte dati dello smartphone. Allora, vi dicevo che questo è un mercato che nel primo trimestre ha fatto 426 milioni di pezzi, la metà sono smartphone. Se guardiamo alla classifica dei produttori di smartphone, al primo posto c'è Samsung che ha circa il 30%, il 30,8%, quindi quasi 31% del mercato, Apple ha il 18%, LG 4%, Huawei 4%, eccetera eccetera, poi tutti gli altri. E pensate che quasi il 40% del mercato è fatto da altri produttori, cioè vengono catalogati come altri, e sono tanti piccoli produttori cinesi che utilizzano Android come sistema operativo. Allora, che cosa possiamo dire? Ne abbiamo parlato sempre con Carolina Milanesi di Samsung, della novità presentata da poco, quindi l'S4, e anche di Apple, perché c'è naturalmente chi si chiede se dobbiamo attenderci nuovi prodotti prima dell'estate da Apple o dopo l'estate. Ma guarda, per due cose. Allora, sull'S4 è sembrato senz'altro il telefono più commentato di quest'anno. Ci sono stati un pochino di problemi a livello di lancio globale, per esempio in America hanno avuto dei ritardi, stanno avendo anche dei ritardi sull'inclusione di Knox. Avevamo parlato di questo quando abbiamo fatto la trasmissione su Mobile World Congress a febbraio, quindi la soluzione di Samsung per le aziende che guarda a poter utilizzare l'S4 all'interno di aziende, quindi la sicurezza e tutte queste cose. Quindi un po' di ritardi, però senz'altro molta attenzione. Per quanto riguarda Apple, io non diventerei molto così, molto eccitata alla prospettiva di vedere qualcosa a giugno. Se hai sentito i commenti che ha fatto Tim Cook durante l'ultima telefonata che hanno fatto per commentare i loro dati trimestrali, ha detto che non ci saranno prodotti fino all'autunno. Adesso non mi aspetto che non ci sia proprio niente, però per me sia il telefono che per quindi il nuovo iPhone che per l'iPad dovremmo aspettare l'autunno. Se guardi agli anni precedenti, non hanno mai lanciato il sistema operativo e il telefono nello stesso momento, perché non dà abbastanza tempo agli sviluppatori di creare le applicazioni, e quindi in base a quello sarebbe una mossa veramente diversa quest'anno se facessero il telefono e il sistema operativo insieme. Sì, sì, quindi ci stai dicendo, insomma, a giugno conferenza degli sviluppatori per poi lanciare un prodotto in autunno. Senti, questa settimana Nokia ha presentato l'evoluzione del telefono di fascia alta. Ti soddisfa questo nuovo 925 o dobbiamo aspettarci anche da Nokia qualcosa di meglio, magari in autunno? Ma sicuramente mi aspetto di più prima della fine dell'anno. Il 925 è un buon telefono, una buona evoluzione di quello che la Nokia ha fatto. Se guardi al 920, una delle critiche più comuni che è stato fatto al telefono era il peso, il fatto che era troppo pesante e anche un attimino troppo spesso, per appunto il discorso del wireless charging integrato che lo rendeva più spesso e più pesante. Con il 925 secondo me hanno creato una soluzione che sicuramente così tacita un pochino questi commenti, lo rende molto, molto sottile, molto leggero, un bellissimo design, ma secondo me anche un pochino una mossa per cercare di prendere una parte del mercato più business. Se guardi ai colori, sono colori molto più sobri che non la parte che abbiamo visto nel 920. Quindi il silver, sono andati sul classico, con poi la possibilità, se vuoi aggiungere il colore, di farlo con delle covers che sono wireless charging, quindi sono abilitate a fare wireless charging e quindi ti puoi prendere il tuo rosso, il tuo rosa. Quindi una mossa secondo me abbastanza furba in un momento che ovviamente vede RIM ancora in difficoltà nonostante il lancio dei nuovi prodotti. Sì, naturalmente Carolina Milanesi ha citato RIM, una volta si chiamava RIM, cioè BlackBerry, perché non sta ottenendo un grande successo soprattutto nel settore business, e quindi Nokia sta cercando di colpire proprio in quel segmento. Le 16:16 minuti, riprendiamo tra un minuto. 2024. Parliamo anche naturalmente di sistemi operativi, molto importante il sistema operativo, oramai determinante per tutto l'ecosistema e il mondo che ci apre. Android è al primo posto con il 74% del mercato, pensate, 74% del mercato, anche spinto da tutti i produttori cinesi che installano Android. Certo, Samsung con il suo 30% di quota di mercato nel mondo degli smartphone sicuramente è il produttore più importante che monta Android, però abbiamo, come dicevo, quasi il 40% del mercato fatto da tanti piccoli produttori, quindi Android è spinto molto da quello. Poi c'è iOS, quindi Apple con il 18%, RIM con il 3% e Microsoft con il 2,9%. C'è anche chi dice, altre società dicono che Microsoft ha superato Research in Motion, però insomma stiamo spaccando il cappello in quattro. Allora, a proposito di Android e di questa forza, c'è chi considera questo 74% un po' troppo ingombrante, come ad esempio Samsung. Sentiamo ancora Carolina Milanesi. Ma sicuramente sentiamo più e più indiscrezioni sul fatto che Samsung stia puntando a utilizzare Tizen, che era stato introdotto l'anno scorso, come il sistema operativo per loro. Samsung è arrivato a un punto dove come venditore principale, quindi come numero uno nel mercato, si sente forte abbastanza da voler creare il proprio ecosistema, e dal punto di vista di Android sono stati molto sono cresciuti moltissimo e sono stati anche molto attenti a cercare di creare un ecosistema loro sull'ecosistema, cioè tante delle applicazioni che vengono naturalmente, dei servizi anche che vengono naturalmente offerti da Android tramite Google, sono stati un po' replicati da Samsung, specialmente se guardiamo all'S4. E per me è stato affascinante questa settimana vedere a Google I/O il fatto che non c'è stato il lancio del nuovo sistema operativo Key Lime Pie, non c'è stato il lancio del nuovo Nexus, tanti si aspettavano sia un tablet che un telefono, ma c'è stata una presentazione di praticamente il Galaxy S4 che fa un po' da Nexus, nel senso che Google l'ha preso, ha preso il telefono così, non l'ha fatto rifare sotto la brand Nexus e lo mette nel Google Play, lo mette nello store a $650, quindi un prezzo alto per un consumatore normale, e dicendo chiaramente che quella che danno loro è l'esperienza pura di Android. Quindi hanno tolto, se vuoi, tutti i layers che Samsung ha messo sul loro telefono, e così facendo un po' di pubblicità al fatto che c'è un'esperienza vera, pura, che è migliore di quella che ti può dare Samsung. E questo secondo me è un segnale di... così, di un po' di instabilità, di un po' di friction tra Google e Samsung, che sicuramente incrementerà, diventerà ancora più un problema se Samsung decide di portare tutto su Tizen. Questo è sicuramente un segnale molto chiaro che Google sta dando a Samsung. Tu pensi che questi segnali potrebbero diventare più numerosi o anche molto più determinati, molto più chiari con prodotti, con un'accelerazione di prodotti di Motorola? Ricordiamo che Motorola è di Google, ma fino a questo momento Google attraverso Motorola non ha fatto una grande concorrenza, una forte concorrenza a Samsung, e quindi diciamo ha lasciato fare, ha lasciato crescere questa azienda che è diventata il principale partner dal punto di vista di Android. Però visto che Samsung sta dando segnali chiari e sta dimostrando che Android è un po' troppo ingombrante, tra l'altro ultimamente nella presentazione dell'S4 Android non è nemmeno stato nominato, e come tu ci ricordavi molti dei servizi nativi sono nascosti attraverso una serie di servizi analoghi però marchiati Samsung, tutta la serie S-trattino eccetera, cioè S-Voice eccetera eccetera. Allora potrebbe ad esempio Motorola essere un grimaldello che potrebbe dare un'accelerata a queste frizioni tra le due aziende? Più che sì e no, nel senso sicuramente io mi aspetto che il prossimo Nexus product verrà fatto da Motorola, questo è secondo me molto, molto chiaro e avrebbe anche molto senso. Quello che possono fare con Google è rendere più difficile gli update e anche decidere quando le nuove varianti del sistema operativo vengono messe a disposizione dei vari venditori. Non possono togliere il sistema operativo totalmente, perché Android è un sistema operativo open source, l'hanno creato apposta così, però possono decidere quali servizi, quali features che sono sviluppate internamente a Google vanno a finire sulla parte open source invece che non sulla parte che è governata, se vuoi, da Google. Tornando un po' a quello che era l'inizio di Android, dove avevi tre fasce diverse di prodotti, dove c'era una fascia che era soltanto l'open source, che era molto basic, una fascia che ti dava alcuni prodotti di Android, di Google, e poi una fascia che invece aveva anche il marchio Google dietro, che era proprio, diciamo, il full monty, dal tutto completo e organizzato in una maniera dove avevi un'esperienza totale. Molto interessante, abbiamo raccontato molte cose, quindi un'intervista sicuramente molto concentrata di cose interessanti. Allora, Luca Salvioli, che come vi dicevo poco fa ci ha raggiunto dalla redazione del Sole 24 Ore Online, che è due piani sopra Radio 24. Tu hai seguito questa settimana Google I.O., questa conferenza per gli sviluppatori, e forse questa è stata l'unica presentazione di prodotto, non ci sono state altre? Sì, in effetti i più appassionati di tecnologia fisica, di hardware e di gadget forse sono rimasti un po' delusi a vedere i commenti. anche perché un anno fa era stato l'anno di Google Glass, quindi c'era, mi pare, Sergey Brin era salito sul palco con i Google Glass, avevano fatto vedere i primi video di come saranno le applicazioni di questi occhiali connessi a internet, e quindi si riferiva a tutto un immaginario fantascientifico e non Sì, Google solo. Glass che devono ancora arrivare, E infatti, arriveranno in fantascientifico. numero limitato forse alla fine dell'anno, all'inizio del Esatto. prossimo anno. E, tra l'altro già si stanno scatenando, allora, ci sono quelli che stanno già facendo le applicazioni, ma soprattutto negli Stati Uniti c'è chi dice oh, occhio, perché con il Google Glass dove in una lente puoi vedere delle indicazioni, ne so, io guardo te, c'è il riconoscimento facciale, mi dice Esatto. quello è Luca Salvioli, alcuni sono spaventati Sì, per il problemi di congresso privacy. ha scritto una lettera all'Harry Page, al CEO, chiedendo informazioni, chiarimenti sulla tecnologia di riconoscimento facciale e tracciamento di dati personali. Google ha già avuto un po' di questioni negli ultimi anni, con i Google Glass rischiano di ampliarsi di Eh molto. sì, anche in Europa qualche problema di privacy. Sì. Comunque, insomma, a parte questi problemi di cui abbiamo già parlato, sicuramente riparleremo. Quali sono le cose più interessanti che sono state presentate in questa conferenza? Dicevamo, in termini di hardware, l'unica cosa è quella che diceva Carolina Milanesi, quindi questo S4 vestito da Nexus, che però arriverà verosimilmente solo in America perché viene venduto online da Google e generalmente poi non arriva da noi in Italia. Mentre appunto sono rimasti delusi quelli che si aspettavano nuovi prodotti, ma se andiamo a vedere tra i tanti annunci, tieni conto che il primo keynote è durato alla fine quasi 4 ore, Sì, quindi. infatti alcuni hanno detto, ma siete pazzi? Siamo usciti Allora, esausti, sì. però alla fine le novità ci sono, non si toccano con mano, ma tracciano, come dire, un po' il percorso che Google sta cercando di costruire per gli anni prossimi venturi, a partire dalla musica. La musica, l'annuncio di un servizio di musica streaming a 9,99 dollari per al mese, con milioni di canzoni a catalogo in streaming, quindi nessun tipo di download sul modello Spotify, è interessante soprattutto perché arriva prima di Apple, perché da un po' si parla, no, di questo Sì. servizio streaming di Apple. In realtà Google ha bruciato sui tempi Sì, quindi Apple. questo servizio, anche in questo caso stiamo parlando di una cosa che parte solo negli Stati Uniti, però è molto probabile che nei prossimi mesi sbarchi anche Hanno in detto che Europa. arriverà Sì, poi in altri paesi, arriverà anche da noi. quindi diciamo che è una sorta di Spotify e Apple con il suo servizio iRadio, pare che si chiami così, poi non si sa, sta lavorando con le case discografiche, pare che attualmente ci sia una questione, un nodo da risolvere con Sony, perché Sony dice: Ah, ma se un cliente fa skip, cioè ascolta la canzone per pochi secondi, poi passa alla successiva, mi paghi o non mi paghi? Mi paghi quanto e che ne so, dopo quanti secondi? Cose complicatissime, Il quindi tema delle partnership è complicatissimo. Si era già visto ai tempi di iTunes, dove Apple nella musica digitale ha segnato un solco. Solo che adesso con la connessione disponibile quasi per tutti, insomma, a costi accessibili e anche di buona velocità, lo streaming è il fenomeno del momento. Si vede dal grande successo di Spotify, quindi Apple rischia di rimanere un attimo indietro su questo. Nota, come dire, a margine, che però inquadra il mercato. Quest'anno, per la prima volta, il mercato complessivo della musica, da Napster, quindi fine dal 2000, per la prima volta ha fermato l'emorragia di fatturato complessivo. Ha fatto uno più 0,3%, che Però non è è nulla di un che, cambiamento, però è un cambiamento certo. importante, drenato soprattutto al digitale, in particolare dalla crescita fortissima dello streaming. Google vuole starci. Io ho l'impressione che abbiano accelerato i tempi, infatti parlano di milioni di canzoni, ma non dicono il numero, probabilmente perché ancora gli accordi non tutti sono conclusi. Sì. In effetti, diciamo, ad oggi in questo ambito Spotify è sicuramente la piattaforma con un numero Assolutamente. di canzoni. Poi c'è anche Deezer che è Deezer è abbastanza. molto simile, tra l'altro è arrivato in Italia prima, forse non ha comunicato come Spotify, che ha comunicato molto bene insieme a Sanremo ed è molto utilizzato, Sì. insomma, A se ne parla. me piace molto Radio, ma perché si chiama Radio? RDO, che è fatta da ex di Skype, se non sbaglio. Vabbè, insomma, poi di questo abbiamo parlato in altre trasmissioni, poi potremo riparlarne in altre occasioni. Altre novità presentate da Esatto, Google? dopo la musica, Google considera il suo annuncio più importante quello delle mappe, perché da 8 anni a questa parte, quindi dal lancio delle prime mappe di Google, questo è il maggior restyling, Che prima caratteristica, diciamo, dalle demo che sono state dimostrate, che sarà tutto le mappe saranno tutto schermo anche su PC, non solo come applicazione. La grafica è più pulita e c'è uno spazio in alto a sinistra dove uno può fare la ricerca, è più elegante, ma soprattutto la ricerca è molto più personalizzata. C'è l'esempio della ricerca di un ristorante sushi a Manhattan. Uno mette la ricerca e vengono evidenziati non solo il ristorante che tu stai cercando, ma anche tutti gli altri, le altre attività simili, in modo tale che se tu magari sei in un posto dove ti è troppo lontano il raggiungimento del sushi bar che volevi raggiungere inizialmente, puoi sceglierne altri. Poi le vengono evidenziate, come quando tra amici ci si incontra e uno ti deve spiegare la strada e evidenzia, no, sulla cartina la strada più breve per arrivare da casa a un determinato posto. Il sistema è intelligente sotto questo punto di vista, è personalizzato e quindi nasconde un attimo tutte le altre strade, valorizzando quelle che dovrai fare tu. Sì, tu poco fa, noi abbiamo prima della trasmissione abbiamo fatto una veloce chiacchiera e tu mi dicevi: non è stato presentato nessun prodotto perché il prodotto, come che il prodotto siamo noi, nel senso, sì, questa è un po' l'impressione, in quanto c'è una grande enfasi sulla personalizzazione, cioè tutto questo universo di servizi che ha Google. Devo dire che uscendo metaforicamente, perché ero virtualmente sì. Dalla sessione, dal keynote, ero molto colpito dalla quantità di cose che sta facendo Google. Ce ne accorgiamo tutti i giorni, ma quando vedi anche come lavorano sui singoli progetti ti rendi conto che è un universo pazzesco. Sì, è vero. Ebbene, sono molto bravi da questo punto bravi, di vista. Sono bravi, assolutamente molto bravi, e al centro c'è ovviamente l'utente con le sue esigenze e i suoi bisogni, che loro cercano di intercettare in tutti i modi. In questo caso con una personalizzazione molto accentuata, ne abbiamo parlato sulle mappe. Un altro esempio è quello di Google Now, applicazione che già è utilizzabile su iOS e Android, che oltre a fare una ricerca stile Siri con riconoscimento vocale, anche la ricerca predittiva ti dice quanto ci vuole ad arrivare da qua, sole 24 ore a casa mia, in questo momento, dove ci sarà più traffico. In altri paesi, in alcune città, ti dà informazioni sul trasporto pubblico, ti parla, sono state inserite nuove possibilità sui film, i libri. E non solo, quando tu fai una domanda al telefono per dire chi è il presidente del consiglio, ti arriva una risposta, le domande successive che farai relative alla domanda precedente il sistema se le ricorda, e quindi arriva a risultati sempre più precisi ricordandosi la tua domanda precedente. Ok, naturalmente il fatto che Google stia facendo tante cose e occupi spazi sempre maggiori nella nostra vita, nelle nostre attività, creerà indubbiamente anche problemi di carattere economico, di competitività, di antitrust, e su questo naturalmente le autorità stanno già lavorando, ma immagino che ci saranno molte questioni aperte anche per i prossimi anni. Maurizio Napolitano, bentornato a 2024. Grazie. Maurizio Napolitano è un ricercatore della Fondazione Bruno Kessler di Trento e oltre a occuparsi di mappe anche per lavoro è tra i rappresentanti in Italia di OpenStreetMap. Maurizio, per quale motivo le mappe stanno diventando sempre più importanti nella strategia di Google? Ovviamente per ovvi motivi economici, poi cerchiamo anche di capire come fa i soldi Google tramite le mappe, ma in generale mi sembra che il concetto di mappa sta diventando sempre più importante. Per quale motivo? Beh, proprio partiamo dalla parola mappa. La mappa, come significato, se andiamo a vedere la sua storia, vuol dire straccio, ed erano degli stracci su cui gli agronomi disegnavano il territorio. L'esigenza di rappresentare il territorio è un'esigenza che abbiamo da tantissimo tempo, parlo come civiltà umana. E la potenza che ha la mappa è incredibile, perché è un database complesso che semplifica esattamente le informazioni che voglio raggiungere. Pertanto è ciò che si avvicina di più a questo modello, diciamo, a questa tecnologia che può essere appunto lo straccio, così come poi l'interfaccia web, è ciò che avvicina di più la nostra percezione verso la realtà. Pertanto investire sulle mappe e permettere poi, come ha fatto Google anche dalle ultime uscite, quella di trovare le ricerche geolocalizzate in relazione a quello che mi serve, semplificando anche, prima si parlava del fatto di trovare il percorso migliore, levando le strade inutili per quello che è l'obiettivo, non è altro che un passaggio sempre più fondamentale per far sì che il potere di queste mappe ci torni e ci avvicini tra il mondo virtuale e il mondo fisico. Allora, tra poco ti chiederò anche che cosa sta succedendo nel settore delle mappe, cose nuove e cose interessanti che stanno succedendo, magari succederanno nei prossimi anni. Vi ricordo il nostro numero verde per parlare con noi, in questo caso di mappe, di come utilizzate voi le mappe, magari siete un operatore e le utilizzate anche per lavoro. 800 24 00 24, gli sms 349 238 6666. Utilizzate, potete utilizzare anche Twitter o anche Facebook. A tra poco. 2024. Stiamo parlando di mappe a 2024, dell'importanza che oramai le mappe hanno nella vita di tutti i giorni, ma anche nel business di tutti i giorni. È con noi Luca Salvioli del Sole 24 Ore e Maurizio Napolitano della Fondazione Bruno Kessler. Allora Maurizio, che cosa sta cambiando e che cosa sta succedendo? Facciamo anche alcuni esempi di cose che già si fanno e quello che tu vedi si potrà fare nei prossimi anni sulle mappe, con le mappe. Bene, le mappe nascono dai dati geografici. I dati geografici hanno una storia molto lunga e tutta la creazione delle mappe viene da un percorso lunghissimo che è oltre 40 anni. Adesso c'è stato questo passaggio, grazie anche soprattutto a Google Maps, di quella che viene chiamata la neocartografia, la neogeografia, che non fa altro che semplificare la possibilità di creare mappe. Google Maps è il prodotto migliore in assoluto in questo momento perché avvicina le persone alle mappe e a quello che vedono intorno. Ma tutta la tecnologia che c'è dietro, che è sempre rimasta all'interno degli esperti di dominio, in ambito militare, in ambito accademico, adesso permette di essere utilizzata con molta facilità anche con pochissimi click. Degli esempi molto pratici vengono da, ad esempio, ArcGIS Online, che è un'applicazione di Esri, un'azienda che è dedita da anni nell'ambito delle mappe, ma anche da un corrispettivo open source che è CartoDB. Attraverso un'interfaccia online semplicemente si possono fare queste operazioni che un tempo erano soltanto chiuse nei cassetti, negli uffici delle persone esperte. OpenStreetMap è un altro esempio di fatto come le persone possono raccogliere informazioni geografiche quando un tempo era veramente la necessità di un grande livello di esperienza. Quello che avremo in futuro, è difficile fare grandi previsioni, ma già quello che si può fare è fare delle elaborazioni molto semplici. C'è un sito, Mapnificent, che prende le informazioni che vengono pubblicate delle tabelle d'attesa degli orari degli autobus e permette di avere una mappa che mostra con una chiazza cromatica in relazione alle distanze da coprire cosa si riesce a coprire nel giro di 5, 10, 15 minuti attraverso i mezzi pubblici dato un luogo. Questo qua è già un'applicazione che esiste, il problema è quello di mettere i dati, ma già mettendo disponibili i dati si riescono ulteriormente ad arricchire e poi si possono incrociare. Allora uno scenario futuribile che già esiste perché My Society, ONG che sta a Londra, l'ha già creato, c'è la possibilità di mettere l'informazione sui costi degli affitti in relazione ai trasporti degli autobus. E su questo tutto quello si può evolvere una grandissima business logic di marketing che comunque può entrare sempre più nelle case in maniera sempre più semplice, in cui, così come la semplicità con cui adesso le persone usano fogli di calcolo, laboratori di testo, sarà ancora più facile, ma penso nel giro di pochissimo, 2-3 anni, perché già applicazioni esistono, di poter creare le proprie elaborazioni sui propri dati e quindi ad esempio scoprire con pochissimi click, senza neanche avere delle grandi conoscenze, quanta energia solare posso ricevere sul tetto di casa mia per installare il fotovoltaico. Sì. C'è e qual è il legame tra le mappe e questi strumenti che diventano sempre più semplici per creare la propria mappa, per creare nuove mappe fatte magari su interessi particolari? Allora, che legame c'è tra tutto ciò e il cosiddetto tema degli open data, quindi di dati che vengono messi a disposizione pubblicamente? Perché nel caso di mappe create da aziende come Google, buona parte del lavoro viene fatto da Google stesso nella raccolta dei dati, oppure vengono acquisiti dati da banche che richiedono insomma un pagamento, se ci sono aziende specializzate. È vero che recentemente Google, così come hanno fatto altri, ha forse, Luca, questa è una delle novità di Google iOS, cioè l'apertura agli utenti per raccogliere dati sulle mappe, se non sbaglio. Sì, esatto, c'è una... Intanto uno può mettere le stelline nei posti preferiti, mette i commenti tramite il social network Google Plus, e quindi tutte le informazioni sociali ci saltano fuori durante le nostre ricerche. Immagino sia una cosa modulare e gestibile, perché sennò c'è un'esplosione di commenti, certo, in ogni, certo, pagina. Allora, torno alla domanda, allora, che legame c'è tra tutto questo e il tema dei dati aperti, degli open data che possono essere messi a disposizione dagli utenti e dalle pubbliche amministrazioni? Napolitano. Quando parliamo di mappe, le mappe sono l'output dei dati. La mappa non è altro che la rappresentazione del dato. Il dato di una strada è un insieme di punti che descrivono una linea, che hanno delle coordinate, hanno delle proprietà. Quando prendo queste coordinate e queste proprietà, posso decidere che colore utilizzare sulla strada, se quella è una strada piuttosto che un sentiero avanti di questo passo. Quindi il legame tra mappa e dati è strettissimo. I geodati, i dati geografici, hanno potere potentissimo perché mi spiegano dove mi trovo. Grazie ai geodati che la pubblica amministrazione raccoglie per mandato e che comunque chiunque adesso è in grado di produrre, si parlava prima di OpenStreetMap, questi qua sono due pezzi fondamentali per permettere la creazione di mappe. Sulla base, se ho dei dati aperti, specialmente se poi dopo questi dati aperti sono della pubblica amministrazione che per mandato gestisce la toponomastica, il nome di una via, lo sa prima la pubblica amministrazione che Google, che è cambiata, così come i numeri civici, perché è la pubblica amministrazione che decide questo. Mettendo questo patrimonio disponibile potremo avere mappe sempre più dettagliate e di maggior successo, e anche le aziende potranno trarne vantaggio e possono nascere anche nuovi scenari di imprenditoriali. Questo è fondamentale. Quello che non mi piace è quando vedo la pubblica amministrazione che invece fa il percorso inverso, perché giustamente Google si presenta come uno strumento potente, facile da usare, però con l'aggiornamento di dati che invece viene da fonti diverse, soprattutto fonti proprietarie, come si diceva prima, che non è sbagliato il fatto di pubblicare la mappa del proprio comune attraverso Google Maps. Il problema è che quello che c'è su Google Maps lo decide Google Maps, e quindi se la pubblica amministrazione pubblica la mappa di Google con la pubblicità di un'azienda rispetto ad un'altra, perde il suo fattore di neutralità. Tornando al discorso open data, è fondamentale i dati, soprattutto i dati geografici, per arrivare a creare delle mappe di qualità. Quindi diciamo, la palla la stai passando alla pubblica amministrazione, cioè un segnale alla pubblica amministrazione? Certamente nell'ecosistema open data la pubblica amministrazione ha un ruolo fondamentale, l'apertura dei dati da parte della pubblica amministrazione è fondamentale, partire da dati geografici è ancora più importante perché è il modo più semplice per avvicinare la caratteristica elitaria che hanno i dati verso la popolazione. Sicuramente poi dopo c'è la partecipazione attiva dei cittadini. Lasciando perdere adesso i casi come OpenStreetMap, pensiamo a tutto quello che è stato UCI di CrowdMap, la segnalazione volontaria sul posto di dichiarare ad esempio problematiche sui rifiuti, piuttosto che come è stato nel caso di UCI in Kenya, dove venivano degli scontri a causa di differenti idee politiche. I cittadini possono aumentare queste informazioni inserendole in maniera o attiva o anche passiva Google, tutto sommato, attraverso, così come Waze e altri, grazie ai sistemi di navigazione assistita per gli utenti, raccolgono anche le informazioni che gli utenti stessi, portando a spasso lo smartphone piuttosto che GPS, vanno a condividere e quindi migliorano la qualità di questi dati. Invece però si tratta proprio di un ecosistema dove l'infrastruttura di base viene data dalla pubblica amministrazione, dove poi cittadini, utenti, possono essere anche le aziende, contribuiscono in questa cosa a popolare questo, a migliorare tutto quanto e a creare nuovi servizi fondamentali. La mappa e i dati geografici sono fondamentali in tutto questo, e come ho detto prima la pubblica amministrazione riveste un ruolo fondamentale perché è il primo attore sul territorio che ha la delega. Certo, è la prima che ha i dati, quindi chiaro. Ci risentiamo tra un minuto. 2024 16:48 minuti, una domanda per Maurizio Napolitano. Qual è il modello di business o i modelli di business sulle mappe? Cioè partendo da Google, come fai i soldi Google e come tu immagini si potrebbero creare nuovi modelli in altri ambiti, anche utilizzando ad esempio i dati raccolti all'interno del progetto di OpenStreetMap? Google Maps offre un'infrastruttura potentissima per i dati, e la cosa che per i dati, per le mappe, soprattutto la cosa che stupisce di Google è che è tutto gratis. In realtà Google ha dei meccanismi, mette questo oggetto Google Maps per fare in modo di accreditarsi il più possibile verso gli utenti, e fare in modo che ci sia sempre più interesse intorno. Però quando incomincia ad esserci una richiesta di volume troppo alta, incomincia a chiedere pagamenti. Giustamente, se il servizio va oltre, cioè tu dici, aspetta che spiego, aspetta solo un attimo Maurizio, tu chiede soldi alle aziende che utilizzano i dati cartografici di Google, non a me, non utente finale, anche a me utente finale? Sostanzialmente funziona in questo modo: io chiedo la mappa a Google tramite la mia applicazione, quando il volume della mia applicazione, numero di richieste, supera un numero di richieste, adesso non mi ricordo esattamente qual è, al secondo, mi ferma. Quindi, per assurdo, come utente singolo, se facessi questo numero, ma è un numero talmente alto che un singolo utente non lo farà mai. Appunto, certo. Se faccio tante richieste, inizia a fermarmi il servizio e mi dice paga per avere di più. Certo. Foursquare ha deciso di passare a OpenStreetMap perché, vedendo aumentare il numero di chiamate dalle sue applicazioni verso Google, cominciava a pagare questo traffico di volume. Allora ho spostato alcune parti su OpenStreetMap. Il vantaggio di usare OpenStreetMap cos'è? Che chiaramente devo rifare tutta la filiera dai dati alla mappa, però ho dei dati aperti che posso riutilizzare, che vengono poi aggiornati dalla comunità, e quindi posso spostare parte delle richieste che faccio a Google, come le mappe di sfondo, su altri server e quindi gestirli in maniera diversa. Poi c'è anche la pubblicità, giusto? Certamente. La pubblicità può essere che decido adesso, pian piano che gli utenti usano sempre più Google Maps e vengono profilati attraverso la loro utenza. Prima si diceva la possibilità di inserire informazioni da condividere attraverso Google Plus. Vengo profilato, nel momento che vengo profilato, la mappa che mi si presenta potrebbe iniziare a prendere la forma delle informazioni che interessano più a me. Molto probabilmente, si parlava prima dell'esempio del sushi, non mi interessa il sushi, o mi interessa il sushi di un certo tipo, la mappa mi farà vedere quel tipo di sushi, dove chiaramente l'azienda che vende quel tipo di sushi avrà pagato Google per questo. Sì, mi pare che ci saranno anche dei couponing, cioè la possibilità appunto di avere magari degli sconti se arrivi durante la ricerca tramite le mappe, una certa attività commerciale eccetera. Posso immaginare che ci sia uno sharing con Google anche su questo? Sì, questo potrebbe essere uno scenario ulteriore. Tu immagini, o già oggi esistono altri modelli di business, cioè aziende che fanno soldi utilizzando altri tipi di mappe, ad esempio, quindi comunque con altri modelli di business? Certo, ci sono altre aziende che usano strumenti diversi da Google Maps. Alcune nascono proprio per scelta loro, facciamo un esempio: Nokia addirittura ha comprato l'azienda Navtech per proporsi le sue mappe per gestire il suo modo e soprattutto per vedere i cellulari con sopra il navigatore e quindi essere concorrenti sul mercato. Altre aziende che hanno la necessità di fare una rappresentazione diversa, perché in fin dei conti Google, se muove l'ambiente urbano, è vero, mi permette la foto aerea e tutto, ma se vuole avere una mappa specifica di un certo settore devo personalizzare. Posso decidere di personalizzare con Google Maps, ma ho molto più margine di cambiamento, di definire le mie cose quando ho accesso ai dati. Quindi lo specializzarsi su determinate tipologie di mappe e quindi su determinate tipologie di utenti mi va a creare un mercato che spesso Google non è in grado di coprire. Quello che Google rappresenta è il 10% del potenziale di quello che si può fare con i dati geografici. Però quel 10% copre il 90% delle richieste dell'utente medio. Quello che avanza fuori sono tutte informazioni che invece possono essere utilizzate con altri scenari da tantissime altre aziende. Questo è interessante. Abbiamo parlato di fatto di opportunità di business, quindi con i numeri anche che Maurizio Napolitano ci ha dato, ci ha fatto capire molto, e chi ha orecchie per intendere intenda. Maurizio, grazie per essere stato con noi, ti auguriamo buon lavoro. Una volta verrai nel nostro studio, faremo una puntata più ampia dedicata alle mappe, con magari alcuni esempi anche di aziende che fanno business con il mondo delle mappe. Grazie, a presto, buon lavoro. Grazie, onorato. Maurizio Napolitano, lo ricordo, è un ricercatore della Fondazione Bruno Kessler di Trento, si occupa di mappe, è sempre un piacere fare una chiacchierata con lui, anche se devo dire questa mattina io ho fatto una lunghissima chiacchierata, a volte si va ovviamente un po' sul difficile perché stiamo parlando. Quando si entra sul tecnico. Esatto, però è molto molto molto affascinante. Luca, abbiamo Un minuto per dire forse che non ci siamo dimenticati, ma non c'è tempo, però forse in pochi secondi possiamo ricordare che alcune novità presentate da Google riguardano anche Google Plus. Sì, Google Plus, il social network che ha dei numeri interessanti, anche se poi nell'esperienza quotidiana non è che lo si veda moltissimo, se non per singole funzioni, migliora alcune di queste funzioni. Ad esempio lo stream, quindi diciamo l'home page di come viene utilizzato, diventa tre colonne, le foto hanno più spazio, sono più belle. C'è un fotoritocco automatico, torni dalle vacanze, scarichi le canzoni, i doppioni o quelle venute male, il sistema te le accantona in automatico, il che può essere utile. In tutto nella speranza che qualcuno poi lo usi Google Plus, perché adesso devo dire che non è un gran successo. Non tanto. E poi c'è un'applicazione nuova che si chiama Hangout, che mette insieme sia le funzioni di Hangout, e quindi diciamo chiamata in VoIP video, multiutente, ma anche tutti i sistemi di messaggistica di Google. Va a fare concorrenza a WhatsApp, però l'impressione è che avrà molte più cose. Bene, grazie a Luca Salvioli del Sole 24 Ore e noi ci risentiamo la prossima settimana. 2024.